Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La gioia di vivere in un luogo dove la vita è organizzata bene e il senso di tutto che gira al giusto ritmo è impagabile. Fare la cameriera mi metteva la coscienza in pace. Vedevo il frutto delle mie fatiche quando tutto era pulito, era tutto a posto, il lavoro concluso e le cose andavano bene. E poi quando pensi che sia finita la fatica, si ricomincia da capo, si tira fuori tutto con gli stessi gesti e lo stesso ordine. È come una specie di esercizio spirituale, una meditazione, un movimento ritmico, un cerchio che si chiude ogni volta uguale a se stesso, pieno di certezze e di senso della ciclicità delle cose. Mi chiamo Rossella D'Aoglio, abito a Carpi, in provincia di Modena, ho 51 anni e sono separata e ho un figlio di 19 anni. Faccio consulenza in ambito turistico. Il cameriere è un uomo di fiducia. Ci vuole applicazione, serietà e stile. Stile! La clientela è bella gente, ti migliora. Capocameriere, come lo zio. È un padre saggio, ma mica solo per me. I colleghi lo stimano. È un duro, c'ha i coglioni. Però mi sa che c'ha i piedi piatti. Speriamo che mi fanno giocare la schedina con loro. Però non glielo deve chiedere lui. A me i piedi non mi fanno male. Io ci metto la soletta. E poi in Italia si mangia bene. La prima volta che ho pensato che dietro alle porte di una cucina di un ristorante c'era un mondo che andava oltre a quello che si vedeva tra i tavoli è stata quando ho visto questo film qui. È un film, ecco, magari prepararsi la data. Viola, cercamelo tu per piacere. Si chiama Camerieri, è un film di Leone Pompa. Questo me lo ricordavo, Viola, non guardarmi come se fossi un imbecille. Si chiama Camerieri, il regista si chiama Leone Pompucci. Non ha fatto tantissimi film, però ne ha fatti due molto belli. Uno si chiama Le mille bolle blu e l'altro si chiama Camerieri. Qualche nome adesso ve lo dico anche. C'è Antonio Catania, c'è Paolo Villaggio, c'è un sacco di gente. È un film del 1995 e racconta di questo gruppo di camerieri che lavorano su una rotonda, una roba tipo Senigallia, Paolo, una rotonda sul mare. Credo però che sia Romagna. Di rotonda ce n'è una sulla Senigallia, le altre sono delle imitazioni. Comunque tutto si svolge durante una festa di matrimonio e racconta la vita di questi camerieri, quello che succede dietro a questa cucina. Perché oggi si parla di quella cosa lì. Si parla non solo di fare i camerieri, un mestiere che magari tutti almeno una volta, anche per caso, hanno fatto. Si parla anche di come delle volte un lavoro semplice, un lavoro manuale, un lavoro come fare il cameriere può quasi salvarti la vita. 349-238-6666 oppure la mail è voisietequi@radio24.it. Rimanendo in quest'ambito qui, quello dello spettacolo, c'è un'altra cosa che ho visto recentemente che non ho visto al cinema, ho visto in teatro, ed è un gruppo che, se capita nella vostra città, non fatevi domande, andate a vederlo. Si chiamano Familie Flots, sono un gruppo tedesco o forse svizzero-tedesco. Magari informarsi una volta, ma veramente, per dire le cose fatte bene prima di andare in onda. Sono, credo, svizzeri tedeschi. Fanno spettacoli di teatro figurato. No, non, però non vi spaventate. Marco Tulli, non fare quella faccia. Il teatro figurato, no, non fare così con le mani. È una roba che dura un'ora e mezza, non c'è una parola, ma è una meraviglia pura. Questi tizi lavorano con delle maschere molto lunghe, hanno queste facce super espressive, in quanto maschere, anche se non sembrerebbe. C'è uno spettacolo di Familie Flots che si chiama Ristorante Immortale e che racconta della preparazione della sala da pranzo prima che arrivino gli avventori. Gli avventori non arriveranno mai e questo ristorante è tipo perso in qualche posto in montagna. È una cosa di un garbo e di una meraviglia che come poche ce ne sono in giro. Andate a vedere, andate a cercare Familie Flots, Ristorante Immortale. 349-238-6666. Non l'ho neanche detta, questa è Radio 24. Sono le 16:10. È il 7 di ottobre e è venerdì. Il film Cameriere è stato girato ad Anzio, mi scrivono. Quindi Anzio, Roma, vicino a Roma, certo. Fortuna che c'è gente di Roma in questa redazione di là dal vetro. 349-238-6666. Gelli, ho fatto la cameriera per un breve periodo a Londra, 25 anni fa, e quel lavoro mi ha stregato. Ero timida e impacciata, sono diventata una ragazza sicura e veloce nel lavoro. Maximiliano, ma sarà Massimiliano. Ho studiato ingegneria e lo faccio come lavoretto saltuario. Mi occupo prettamente di banchetti. Ritorno a casa con la camicia zuppa di sudore e le gambe molli, ma è il miglior svuotatesta che ci sia. Tra l'altro c'è una differenza chiaramente sostanziale che mi spiegava prima un tizio che l'ha fatto, che lo fa tuttora il cameriere, tra fare il cameriere in una sala di un ristorante normale dove prendi le ordinazioni e invece fare il cameriere ai banchetti dove devi semplicemente portare la roba e poi sbaraccare. Elisabetta, l'ho fatto una volta sola, a cena. Beh, tutti, almeno una volta tutti l'hanno fatto. La cena del primo gennaio di qualche anno fa. Amici hanno un'osteria e mi hanno chiesto una mano. Io, troppo confidente, credevo che dopo i bagordi del 31 ci sarebbero stati pochi clienti. Invece delirio. Da quell'occasione ho imparato a essere molto più indulgente con i camerieri. Portavo il piatto di portate e dopo 10 minuti mi chiedevano: scusa, ci porti anche piatti e posate? Rigorosamente non ricordavo a che punto della cena fossero i singoli tavoli. E visto che ha un'osteria a menù fisso, devo sempre chiedere: voi avete già avuto il primo? Questa è un'altra cosa. Occhio a trattare male i camerieri, perché loro vi portano la roba che poi voi mettete in bocca. 349-238-6666. Si parla di camerieri, ma si parla soprattutto di momenti difficili in cui anche con un mestiere come questo le cose possono cambiare. Per me fare la cameriera è una meditazione. Ho 51 anni e 2 anni fa mi sono trovata improvvisamente senza lavoro e separata, dopo quasi un quarto di secolo di vita in comune. È stato un periodo veramente difficile per me. Non credevo che ne sarei uscita e stavo per lasciarmi prendere dallo sconforto. Poi un giorno ho visto un annuncio su Facebook e ho chiamato senza neanche sapere bene di cosa si trattasse. Si parlava di montagna però, di un alpeggio e di un lavoro stagionale. Ma non era certo il mio settore, non sono mai stata né una guida alpina e tantomeno una cameriera. Eppure la mia voglia di andare via da tutto e di mettermi alla prova ha avuto il sopravvento. E poi non avevo mai fatto un lavoro manuale, se non per pulire casa o altre cose di questo genere. Il sorprendente risultato finale è stato che sono andata per 2 mesi, luglio e agosto, a fare la cameriera in un rifugio di montagna. Un posto dimenticato da Dio e dagli uomini, perso nell'Appennino, a 2 ore di cammino dalla strada più vicina. Davvero la vita ci conduce nei luoghi più imprevisti. Quindi una mattina sono partita da casa alle 6. Dopo 1 ora e mezza di macchina e 2 ore a piedi, sono arrivata alla faccia dei pendolari delle Ferrovie Nord. Quando tornavo distrutta e rovinata, avevo un attimo che dicevo: ma chi me l'ha fatto fare? Ma mentre andavo prevaleva sì, il benessere, perché sapevo che stavo bene. Una volta arrivata su sarei stata bene. Il mio lavoro era abbastanza semplice, consisteva nel rifare le camere di chi aveva dormito tra una camminata e l'altra e poi apparecchiare per il pranzo. Arrivava l'ora dell'assalto dei passeggiatori estivi. Dopo aver servito in media 100 persone al giorno, alle 4 si mangiava e c'era concessa 1 ora di relax. Poi c'era da rimettere a posto e lavare. Verso le 6 di sera tutto di nuovo come era prima e allora si ripartiva ad apparecchiare per le 50 persone della sera che dormivano lì. Verso le 11 di notte di nuovo tutto lavato, pulito e sistemato. Passeggiata di mezz'oretta e sigaretta nel silenzio e nella meraviglia della montagna di notte. Mi allontanavo dal rifugio e mi sedevo in pace. Aspettavo che tutte le luci fossero spente e quando nessuno era più in giro mi prendevo l'ultimo istante prezioso, tutto per me. Poi tornavo, chiudevo la porta e buonanotte. Il mattino dopo, ore 6, sveglia e di nuovo tutto fuori per la colazione. Ore 10, tutto di nuovo nelle credenze, pulito, rifare le camere. Verso le 11 di nuovo, pronto, via, un'altra orda di circa 100 affamati. E di nuovo, pulito, tutto a posto, lavato e via di nuovo, stesso ritmo, fino alla sera. A lunedì mattina me ne andavo e avevo guadagnato 60 euro al giorno. Poco più di quello che mi serviva per la benzina, le gomme e gli ammortizzatori su un bel pezzo di strada sterrata. Detto così sembra un inferno, ma credo davvero che questa esperienza mi abbia salvato. A posteriori credo addirittura che avrei dovuto pagare io per poterlo fare. Però avrebbe tolto il perfetto senso di dare e avere e mi avrebbe lasciato un senso di incompiutezza. In fondo io lavoravo, no? Eppure sodo. Ma la gioia di vivere in un luogo come quello, dove la vita è organizzata bene e il senso di tutto che gira al giusto ritmo, è impagabile. E poi avevo la coscienza in pace. Vedevo il frutto delle mie fatiche quando tutto era pulito, tutto era a posto, il lavoro era concluso e le cose andavano bene. E poi quando pensi che sia finita la fatica si ricomincia da capo, si tira fuori tutto con gli stessi gesti, lo stesso ordine. È una specie di esercizio spirituale, una meditazione, come un movimento ritmico, un cerchio, no? Che si chiude ogni volta uguale a se stesso, pieno di certezze, e di senso della ciclicità delle cose. Al di là dello spirituale, sia sempre molto utile vedere la propria situazione, cioè uscire un attimo da dove si è e andare a vederla, andare in un altro posto che ti permetta di mettere una distanza tra te e il posto in cui vivi normalmente o quello che fai normalmente. Chiaramente andando in alto è ancora più bello il tipo di distanza. I giorni giravano, avevano il ritmo che faceva per me. E la sera lo stellato infinito e il silenzio e questo stare da sola, in alto, a guardare in giù, mi riempivano di senso, ancora di più. Non credo che riuscirei a farlo per molto tempo. È un lavoro logorante e faticoso, ma per me è stata la miglior cura che potessi cercare. E in più, mi pagavano per farla. La mia vita non è diventata tutta rose e fiori, ovviamente, ma io sono tornata padrona dei miei desideri e della mia volontà. Ci ho lavorato sopra, lontano da tutto e da tutti, ma vicina a me stessa. Here we go again. The night is sleeping and my glass is full. My mind goes blank while you talk to me, 'cause I am stuck running around in circles looking for a place to be. Although I don't really want to end up anywhere, I wish I could fly high. I wish I didn't have the time to think at all. And I wish to say a little longer walk on by with me today. Go again. The air is blackened by the cigarettes. Nobody's wanting to be so cool to say the truth, so we shut up and wait. And when I realize that it's time to go, well, I don't know if I will ever return. I wish I could fly high. I wish I didn't have the time to think at all. I wish to say a little longer walk on by with me today. Io ho sempre avuto una passione per i film americani, quelli in cui ci sono aspiranti attori che si mantengono gli studi facendo il cameriere. Da Saranno famosi in avanti. E io ho sempre pensato che si trattasse di una macchietta, di personaggi completamente inventati, di stereotipi sciocchi. Poi mi è capitato di andare a New York e ho deciso che in ogni locale io avrei attaccato bottone, o ci avrei provato almeno, con chi mi serviva al tavolo, per fare una statistica. E la cosa incredibile è che la verità... La metà erano aspiranti attori, l'altra metà aspiranti registi. Sembrava si fossero messi d'accordo. Il fatto è quello, è che il cameriere è veramente un mestiere passepartout. Non c'è bisogno di essere laureati per farlo, ed essere giovani spesso è un vantaggio e non una pecca. Una volta che hai comperato delle scarpe comode e hai imparato ad essere gentile anche con i cretini, sei a posto. Non far cadere i piatti e tira dritto. A fine serata porti a casa dei soldi, abbastanza facili anche se molto faticosi. C'è stato un momento nella mia vita in cui accettavo qualsiasi cosa mi proponessero. Sapete, no? Quando si è fuori dal mondo dell'istruzione ma non si è ancora dentro a quello del lavoro. È un periodo che può durare anche tanto. Io a dire la verità ero stato abbastanza fortunato perché sono sempre più o meno riuscito a fare cose che mi appassionavano. Però quando i soldi per l'affitto scarseggiavano dovevo cercare reddito da qualche parte, nei luoghi più disparati. E un giorno feci il cameriere. E quando dico un giorno feci il cameriere non sono vago, L'ho fatto proprio per un giorno solo. Per l'esattezza era una domenica di novembre, quasi 10 anni fa. La cosa più interessante però è dove l'ho fatto. Perché avevo questo amico che era inserito nel sottobosco dei lavori a giornata, avete presente quelli che sanno un po' tutto di tutto, dove lavorare, quando, come? E lui aveva spesso delle occasioni per fare del catering, che appunto è la cosa più facile perché non devi prendere ordinazione, devi... solo portare piatti, sgombrare a tavoli, sistemare sedie e versare vino bianco frizzante. Quindi faceva fondamentalmente matrimoni e convegni. Poi però la sua ditta vinse l'appalto per le partite in casa dell'Inter. E allora mi chiese se volevo andare a fare il cameriere nella zona VIP dello stadio di San Siro. Mi ricordo, era un Inter Sampdoria e io che non avevo soldi per il biglietto ci avevo visto la doppia opportunità, cioè vedere la partita e portare a casa 2 lire. Ecco, mi riprometto sempre di non dimenticare mai quella giornata, perché ci imparai molto, davvero molto. La prima lezione è stata che bisogna sempre avere nell'armadio un vestito nero, un gilet nero, scarpe nere e una camicia bianca, perché possono servire per funerali o per il lavoro. Poi ho imparato che portare più di 2 piatti alla volta è pericoloso se non sei un giocoliere. Ho imparato che gli ospiti VIP di San Siro sono persone educate finché non appare il cibo sui tavoli e poi diventano un branco di pitbull a dieta da 1 mese. Guardare la partita mentre si versa da bere non è possibile. Ho imparato che stare in piedi per 6 ore è faticoso, che portare via i piatti ancora mezzi pieni di prosciutti, di formaggi lasciati lì, in effetti non fa piacere e fa davvero pensare agli affamati. Ho imparato che i soldi che ti danno alla fine della giornata sono meritati. Ho imparato che il lavoro fisico dà molta più soddisfazione di quello mentale, ma soprattutto ho imparato che è bene non maltrattare un cameriere, perché il piatto che stai per mangiare prima è passato dalle sue mani e non sai cosa può averci fatto. Simone da Padova mi scrive: per 3 anni ogni sabato e domenica lo facevo per fare il Casanova. Cosa vuol dire? Ah, perché il cameriere tira su. Sì, è un po' come la storia della chitarra. Poi devi servire ai tavoli, cosa tiri su? Ho fatto la cameriera a 30 euro per 10-12 ore al giorno. E poi Antonio, che evidentemente è un attore, mi scrive che anche in Italia il passaggio dal ristorante è quasi obbligato per gli attori. E poi ringrazio tutti quegli ascoltatori che io, guardate, adoro veramente quando gli ascoltatori sono così attenti ai dettagli. E infatti mi sono arrivati un paio di messaggi. Uno fra tutti, quelli che questo qua, che io adesso non riconosco il numero di telefono, però se si firma mamma, immagino sia mia mamma, che mi dice: Matteo, questo racconto non mi suona nuovo, ho le travegole, ciao mamma. Mamma, probabilmente non ti suona nuovo. Mi imbarazza un po' parlare a mia madre in diretta, però, perché quando l'anno scorso lanciavamo i racconti che arrivavano man mano durante l'anno, durante l'altro programma, leggevamo degli stralci dei racconti che erano arrivati, e quindi semplicemente questo è il racconto completo di uno stralcio letto. A posto, detto anche le cose a mia mamma, però a lei l'ho detto anche a tutti quelli che mi hanno scritto, ma mi sembra di averla già sentita. Sì, perché l'anno scorso ne avevo letto un piccolo pezzo. Visto che ne avevo letto un piccolo pezzo, oggi invece ho letto tutto il racconto e invece ho voglia di sentire direttamente dalla sua voce Rossella. Pronto Rossella? Sì, pronto. Ciao, come stai? Bene, bene. Però sei un po' timida, Rossella, mi sembra di capire. Sono un po' agitata. Sei un po' agitata. Ok, perfetto. Allora facciamo così. È una grande news questa, alla radio. Sciogliamo subito, Rossella, perché mi sembra che il cuore del tuo racconto, ce ne sono diversi in realtà, perché non è tanto far la cameriera, però diciamo una parte laterale che è importante di questo racconto è che Facebook serve, cavolo, perché ci hai trovato un annuncio. Ma Facebook è incredibile, cioè stasera avrò un'altra operazione Facebook allucinante, che è una cena della quinta elementare dopo 40 anni, e questa mi sembra un po' deleteria. Sì, questa sinceramente fossi in te inventerei una scusa. Possiamo aprire una nuova puntata. No, la cameriera invece è stato meraviglioso, non avrei mai creduto. Perché Rossella, scusami, la cosa interessante è che la parola chiave del tuo racconto è 51 anni, con tutto il rispetto per la tua età, nel senso che non sei una ragazzina. Cioè che tu hai un certo punto della tua vita, per problemi mi sembra sia professionali che familiari, ho capito bene? Sì. Ti sei trovata a non stare proprio molto in forma, giusto? Esatto, esatto. E come sei finita? Andare via. Volevi proprio andare via? Sì. Volevo andare via un attimo, almeno tre giorni alla settimana. Ci dici come si chiama il rifugio in cui hai lavorato? Si chiama Rifugio Battisti e sta sull'Appennino Reggiano, è a 1700 qualcosa. Senti, 1800. Tu poi da allora la cameriera non l'hai più fatta, mi sembra di capire. Io no, mi è capitato, ma per amici. No, no, vabbè, ok. Mano, ma non l'ho più fatta. Però sono stati quei due mesi sostanzialmente. Sì, sì. Sì, l'esperienza è durata quell'estate. Che cos'è esattamente? Guarda, è chiaro l'idea della ciclicità delle cose e dell'ordine, no? È stato quello che ti ha, passami il termine, so che è forte, sembro Maria De Filippi, però che ti ha un po' salvato la vita. Sì, è forte, credo che tutto faccia brodo, cioè non è solo quello, però insomma si mette insieme tante cose, anche quello è stato importante insomma in quel momento, assolutamente. Senti, cosa fai adesso invece? Adesso faccio consulenze turistiche, altro momento interessante del mondo, no, in un settore che in questo momento è assolutamente in crisi, ma va bene. Ma questo lo facevi già? Scusami Rossella, oppure? Sì, ho sempre lavorato nel turismo, diciamo che sempre per quei famosi 51 anni è un po' complicato avere lavori che non siano di consulenza o non siano saltuari, insomma. Certo, lo immagino. Senti, e invece il resto della tua vita come va? Bene, bene. Nella serie proprio mi faccio i fatti tuoi bellamente. No, è interessante scendere dalla ruota per qualche motivo e trovarsi ad avere un sacco di tempo e si rivaluta, insomma, quando poi stai bene e tutto riprende un posto, diciamo che è interessante questa nuova vita dove il tempo è tanto. Senti, è più dilatato, non sei sempre di corsa, insomma. Certo, è molto interessante. Lo rifaresti di andare a servire tavoli per 12 ore al giorno? O? Sì. No, sì. È sempre, cioè, per me è un, cioè, è il ricordo di uno stato di grazia veramente notevole, cioè un po' tutte cose insieme, nel senso l'altitudine, l'essere lontano da casa, cioè vedere tutto da fuori, questa cosa della ciclicità, l'essere anche un po' autobastante, è un po' la logica, certo. Dello zaino, cioè di avere solo due maglioni e stare di tre giorni, cioè la casa è tutta lì, insomma. Guarda Rossella, io ti ringrazio per due motivi. Primo, come al solito faccio, perché mi hai mandato questo racconto anche solo metterti lì a scriverlo. Secondo, perché in realtà questa storia che mi hai mandato, proprio per il suo garbo e la sua semplicità, raccontava molto di più di semplicemente un lavoro saltuario durato due mesi. Grazie mille, in bocca al lupo per tutto. Ok, ciao Rossella. Ciao, grazie. Non poteva che essere in montagna Rossella nella foto che ci ha mandato, che trovate sul sito di Radio 24 alla pagina Voi siete qui. È fotografata, è strano perché è una foto fatta dall'alto verso il basso, cioè qualcuno è più sopra di lei su questa montagna di roccia bianca e la fotografa, quindi si vede lei vestita estiva da montagna, con degli scarponcini, dei bermuda e una canottiera nera. Ha uno zaino in spalla, ha i capelli biondi e degli occhiali da sole. Alle sue spalle si vede una grande montagna, una valle e a destra, piccolo piccolo, il rifugio. Ciao Matteo, ho fatto il cameriere nell'estate dal 91 al 93, avevo 14 anni, si entrava alle 8, si usciva alle 2, oppure si entrava alle 15, si usciva alle 3. Io ho imparato che cos'è il lavoro, che cos'è l'ordine, la pulizia e la precisione. Cose che non dimenticherò più, tutti lo dovrebbero fare per decreto, perché sarebbe un mondo migliore. Eccolo qua, ciao Matteo, io a 48 anni ho riaperto l'attività di ristorazione di mio padre, sono la terza generazione, Stefano L'Aquila. E poi ancora, ho 5 ristoranti, ho 40 camerieri e nessuna cameriera purtroppo, perché gli uomini, i clienti uomini possono creare problemi con cameriere donne. Ma che, infatti, che ristoranti sono? O sei frequentato solo da alcolizzati oppure no? Anzi, io sapevo che era il contrario. Cioè, sapevo che di solito si prendono le cameriere donne perché vanno gli uomini. Un po' come la legge in discoteca, le donne pagano, gli uomini pagano, le donne no. E poi uno di voi mi ha scritto di leggere Ho servito il re d'Inghilterra, che è un libro di Bumi Hrabal. È un super classico, uno scrittore cecoslovacco, pubblicato in Italia nel 1991. C'è anche un film tratto dal libro di, vabbè, non riesco a leggere il nome, ma un po' anche chi se ne frega. Tra l'altro, se qualcuno di voi, allettato dall'idea, ha voglia di fare il cameriere, io prima sono andato a cercare annunci per fare il cameriere, tipo al Porto Antico di Genova, cercano un cameriere solare dinamico. Solare, ma ti pare che puoi chiedere solare, cos'è, un profilo Facebook? Solare dinamico, con disponibilità immediata, vabbè, richiesto curriculum e foto, ma anche a Udine, per bar all'interno della sala bingo di Udine. Ustia, questo è tosto, il bar all'interno della sala bingo, sei al limite depressione tutti i giorni. Cameriere apprendista residente a Udine, poi ancora, aspetta, invernale, 2011-2012, cameriere di sala, età massima 26 anni, Bolzano. Tipo di contratto permanente più tempo pieno. E poi ancora, barista cameriera Vercelli, cercasi barista... Ah no, però in Germania, per ristoranti in Germania. Barista tedesco non indispensabile. Cameriere preferibilmente tedesco parlato. Sì, sembra Job 24. Esiste ancora Job 24? Non esiste più, niente. E d'altra parte saranno tolto, un motivo ci sarà. E l'abbiamo fatto noi. 349-238-6666. Nel film Camerieri, mi scrivono, c'era anche Marco Messeri. Vabbè, giusto, Paolo Villaggio, questo l'ho detto, Ciccio Ingrassia c'era. E poi Abatantuono, Fasari la schedina. Ah, la schedina li salvava perché vendevano al locale e se ne andavano tutti a fare il matrimonio. È arrivato un altro messaggio oggi, uno di quei bei messaggi lunghi che raccontano proprio una specie di storia. È come se fosse una seconda storia rispetto a quella che raccontiamo. Me l'ha mandata Stefano e parla di una vita tra fare il cameriere e anche no. Ciao Matteo, da dove cominciamo? La mia è una storia davvero lunga. Dunque, mi sono diplomato alla scuola alberghiera a Milano e circa a metà degli anni 90 ho servito la cena all'intero pool di Mani Pulite, mentre fuori c'era la scorta. E ricordo che quella sera ho davvero temuto per la mia incolumità. Qualche anno dopo ho avuto l'onore di servire Gassman in un ristorante vicino Cortina, uno degli incontri più interessanti della mia vita. Ricordo ancora benissimo la sua voce che mi parla. Ma nella mia breve esperienza di cameriere, circa 10 anni, tra prestazioni saltuarie e posti fissi, ne ho davvero viste di tutti i colori. Ho servito comici, prostitute, colonnelli e uomini diplomatici, industriali e banchieri, ma anche gente normale. Uomini qualunque, che spesso e volentieri, anche solo con un grazie detto con il cuore, o un sorriso, o un saluto cordiale, mi hanno donato una grande umanità. Ho cambiato mestiere quando ho visto che questa professione veniva sottovalutata, anche e soprattutto dalle più prestigiose catene alberghiere. Ho capito che avrei dovuto continuare gli studi. Ho iniziato a fare l'agente di viaggio e ho mollato anche lì però, perché ho capito che anche io volevo viaggiare. Così sono passato a fare il capotreno sull'alta velocità. Anche se per qualche anno ho continuato a fare qualche extra come cameriere, perché lavorare nel proprio tempo libero è utile se hai bisogno di denaro, ma non solo. Lavorare tra i tavoli è anche uno sport, molto faticoso. E posso dire che da quando ho smesso ho tirato su 10 kg. Ora tornerei volentieri a prendere ordinazioni e a litigare con chef, perché nonostante tutto, credo sia una professione ancora dignitosa. Anche se andrebbe rivalutata la categoria, penso che certi ristoratori dovrebbero tornare a investire sulla qualità dei professionisti, anziché puntare sempre e solo sul low cost del servizio. Romance. The time has come, romance. mettete la testa fuori dal finestrino, se siete in macchina, o se la mettete fuori dalla finestra, se siete a casa in ufficio, vi accorgerete di una cosa, che è calata la temperatura. Questo weekend sono previsti 10 gradi in meno, c'è già vento e arriveranno le piogge. Su tutto il Mediterraneo ci saranno delle burrasche. Allora vi do un consiglio, questo weekend non uscite. Questo weekend state in casa, prendete il vostro computer, lo aprite, vi prendete una pagina di Word, non di più, e scrivete una storia. Che sia una storia vostra, proprio come la storia di Rossella. Guardate, la storia di Rossella è proprio lampante. Un episodio della propria vita, della vostra vita, che vi caratterizza perché racconta qualcosa di voi. Magari è passato, però in qualche modo racconta qualcosa di voi. In una pagina e la spedite. Voi siete qui, @radio24.it. Visto che continuano ad arrivare, io vi ringrazio, però continuo a chiederlo, perché più racconti arrivano e più pezzi di storia non riusciamo a mettere insieme e più riusciamo a creare un piccolo censimento di chi siamo. Proprio in questo fine settimana in cui vi ricordo di compilare il fascicolo del censimento per l'Istat, vi mettete lì, sembra uno dell'Istat, è vero, sembra uno dell'Istat, mettete lì, alla posta. Oppure una maestra dell'elementare, ti metti lì con la tua bella penna e compili tutto il tuo censimento. Ecco, fate la stessa cosa. Dopo aver compilato, aver raccontato in quanti siete, in casa, in famiglia, cosa fate, iscrivete una pagina e cercate di capire chi siete. Io ringrazio voi per quello che fate e che scriverete. Ringrazio Stefano D'Andrea, ringrazio Tiziano Bonini, Paolino Corleoni, Viola Bottoni e questa settimana anche Margherita Aina. La storia di oggi, quella che avete sentito, era la storia di Rossella e parlava di quello, di lavori terapeutici. Quella di lunedì, invece, è la storia di Giorgio e racconta di soprannaturale. Al terzo piano dei ponteggi, su via Pre, verso il confine del cantiere, quasi all'angolo con Vico Pace, la signora mi descrive una stanza dove c'è un armadio coricato, con sopra dei mozziconi di candela. Dalla finestra non si vede, dice, ma dietro l'armadio c'è un materasso, ed è sporco di sangue.